in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e bentrovati alla rassegna stampa dei giornali, dei quotidiani italiani. Cominciamo dal Corriere della Sera, come sempre. Oggi molti quotidiani, come del resto avete sentito nel GR, titolano sulla notizia importante di ieri dell'arresto di Dell'Utri. Quindi il Corriere ha questo titolo, non a tutta pagina. Dell'Utri era in un hotel a 5 stelle. I dettagli appunto li avete sentiti, quindi preferisco magari leggervi un paio di commenti. Quello del Corriere della Sera è firmato da Sergio Romano ed è intitolato L'ex senatore e l'ex cavaliere. Vi leggo la prima e l'ultima parte. L'editoriale inizia, il commento inizia in prima pagina e continua a pagina 36. Sul piano giudiziario, il caso di Marcello Dell'Utri sembra avviato alla sua conclusione. Un uomo condannato a 7 anni da un tribunale del suo paese per concorso esterno in associazione mafiosa va all'estero per ragioni di salute senza chiedere il permesso ai magistrati, grazie a complicità che sembrano avvalorare la condanna. E questa era la prima parte, vi leggo appunto poi le ultime righe, non è lunghissimo questo commento, appunto lo trovate continua pagina 36 e la conclusione di Sergio Romano è questa: se è consentito fare confronti tra personalità alquanto diverse, Dell'Utri non è il primo politico italiano che fugge all'estero nel corso di una vicenda giudiziaria. Giovanni Giolitti andò in Germania nel dicembre del 1894, quando gli fu detto che correva il rischio di essere arrestato per lo scandalo della Banca Romana, e rimase a Berlino per 1 mese e mezzo. Ma tornò in Italia non appena fu raggiunto da un mandato di comparizione del Tribunale di Roma. Bettino Craxi lasciò l'Italia per Hammamet durante i processi di Mani Pulite e commise un errore che il socialismo italiano non ha ancora smesso di pagare. Giolitti si difese in Parlamento e fu per quasi 20 anni il dominus della politica italiana. Craxi, anche per le sue cattive condizioni di salute, è divenuto irrilevante e ha trascinato con sé il PSI. Se Forza Italia non vuole subire la stessa sorte, soprattutto in un momento in cui l'immagine di Berlusconi si sta appannando, occorre che il suo leader e i suoi maggiori esponenti dicano sulla vicenda Dell'Utri una parola chiara. Devono semplicemente, senza distinzioni fumose e poco convincenti, disapprovare e condannare. E questo è il parere di Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. La Repubblica ha più o meno lo stesso titolo: Dell'Utri preso a Beirut, ma sarà battaglia sulla sua estradizione. Anche su questa parte della questione avete sentito tutto nel GR. La fotonotizia della prima pagina di Repubblica è dedicata alle manifestazioni di ieri di Roma. C'è stata questa guerriglia, scontri e feriti a Roma. Pagina 12 e 13 trovate tutta la cronaca. Il commento alla vicenda Dell'Utri sulla Repubblica è affidato a Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, ed è, secondo me, a parte scritto benissimo come sempre, secondo me, gli articoli di Francesco Merlo, e poi rispetto a quello di Sergio Romano è più focalizzato sull'aspetto della mafia, anche di cui Francesco Merlo ha scritto molto e che forse conosce anche come fenomeno culturale. Francesco Merlo è tra l'altro siciliano. Il mezzo mafioso si sente un mafioso e mezzo, e dunque Dell'Utri è patacca pure nella fuga, proprio perché è un uomo di mezza mafia, uno dei tanti rovinati dal film Il Padrino, dove il vecchio satrapo Hyman Roth se la gode in Florida e nella Cuba di Battista. E anche in questo caso vi leggo soltanto una parte, il commento, questa è le poche righe che ci sono in prima pagina, poi continua il commento di Francesco Merlo a pagina 26 e vi leggo l'ultima parte. Scappano sempre nei non luoghi i ceffi italiani. Il Brasile paradiso di Battisti, naturalmente l'ex terrorista o ancora terrorista, perché di fatto non si è mai pentito, sapete che era fuggito in Brasile. Il Brasile paradiso di Battisti è come la Beirut di Dell'Utri. Lì spacciano rivoluzione, qui corruzione. La sua geografia ulteriore, i suoi altrove di Bengodi, sono Santo Domingo, le Bermuda, la Guinea-Bissau e il Libano. Nella mappa, che direbbe Benjamin è il suo curriculum vitae, c'è anche la terrazza dell'Eden, alle spalle di Via Veneto, e la Via Giulia del ristorante Assunta Madre, dove tutti sembrano comparse del film Terapie e pallottole, proprio come Dell'Utri quando disprezzava la TV asservita. Io vado solo da Santoro, diceva. Già nella scenografia nera e nell'esagerazione delle bollicine, dei vassoi di pesce, ci sono la posa, il codice, il posizionamento del concorso esterno, di chi, non potendo avere i galloni della piena appartenenza, lascia intendere di essere il pupo che controlla il puparo e assume su di sé anche il folklore. Persino io, diceva Dellutri, guardando me stesso dall'esterno, mi riconosco come mafioso. E forse è un furbo il proprietario che si chiama Gianni ma si fa chiamare Johnny, regalando un brivido di mezza mafia in più degli avventori, tutti squadrati dagli agenti dell'antimafia che ha sede poco più in là. Parliamo del proprietario di questo ristorante di cui trovate tutto sul, un ristorante romano di cui trovate tutto tra l'altro sul Messaggero, perché appunto i proprietari sono accusati di aver ospitato personaggi, diciamo così, poco raccomandabili. Conclude Francesco Merlo, c'è infine il dettaglio shakespeariano. Alfano ha voluto dare l'annuncio della cattura, il giorno prima aveva dichiarato, in politica non ci sono nemici da combattere. Silvio ha commentato a mezza voce, perché per lui in politica ci sono solo amici da tradire. Ecco, appunto, il codice della mezza mafia. Ma veniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, che ha invece un'apertura completamente diversa. È un lungo reportage di Alessandro Merli su quello che ha detto il governatore della BCE Draghi al Fondo Monetario Internazionale. BCE vigile sull'euro, questa è la sintesi che fa il Sole 24 Ore del messaggio di Draghi. La ripresa procede ma è ancora lenta, pronti a misure non standard. Draghi ha anche promesso che Francoforte, che la BCE ha sede a Francoforte, aumenterà gli stimoli monetari per fermare la corsa della valuta europea, perché sapete che appunto ormai sì, più che di euro si parla di super euro, e per le aziende italiane e non solo che dell'area euro che esportano, questo è un grossissimo problema. Gli altri titoli della prima pagina del Sole 24 Ore, c'è la lettera al risparmiatore, la consueta lettera al risparmiatore che ogni domenica Vittorio Carlini prepara per il nostro giornale, è una pagina intera dedicata a un titolo quotato. Oggi Vittorio si concentra su Moncler. Dopo il piumino globale, la sfida si allarga alla maglieria, e trovate poi l'analisi a pagina 16. Infine vi segnalo un approfondimento di Walter Riolfi sui dividendi, perché sapete che ormai sono stati approvati quasi tutti i bilanci del 2013, quindi le assemblee hanno anche deliberato quando l'utile c'è e quando si decide appunto di distribuire un dividendo, quanti sono i dividendi. E allora c'è la classifica dei dividendi: a Piazza Affari vengono appunto distribuiti dividendi per 12,4 miliardi, in cima a questa classifica per dividend yield, cioè dati in percentuale, c'è Unipol SAI, e poi ci sono Eni, Snam, Terna, Atlantia, Mediolanum, Madue, Agitech, Azimut e Tods, che ha distribuito tra l'altro il dividendo per azione più alto, cioè di 2,7 euro. E il commento di Walter Riolfi: se il mercato si muove come un gregge, lo trovate a pagina 2. La prima pagina della Stampa, un titolo leggermente diverso, la fotonotizia è dedicata a Roma, c'è una foto dei poliziotti che bloccano un manifestante, guerriglia a Roma, arresti e feriti, la cronaca la trovate a pagina 9, ma il titolo principale è dedicato a quello che viene definito il rilancio di Renzi sugli stipendi, nel mirino del Premier le alte magistrature e i super burocrati. Quindi dopo ai super manager di Stato, ricorderete, ne abbiamo parlato proprio qui due domeniche fa, Moretti delle Ferrovie dello Stato, adesso Renzi apre altri fronti su questa questione degli stipendi altissimi. Naturalmente c'è la notizia di Marcello Dell'Utri intitolato Nella suite da 12.000 euro a notte, e poi un reportage di Mario Calabresi, il direttore della Stampa, da Auschwitz-Birkenau, perché questa settimana perché ci sono due sorelle che erano entrambe due sorelle ebree, entrambe sono sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, sono le sorelle Bucci, e sono tornate in questo lager insieme a 400 persone, un viaggio che Mario Calabresi, che era tra queste 400 persone che ha partecipato a questo incredibile viaggio, un viaggio fra sensi di colpa, emozioni e il bisogno di ricordare. E c'è anche tutto un approfondimento su questa questione che può sembrare così strana, sul fatto che a volte i nipoti dei sopravvissuti si fanno tatuare sul braccio, come erano stati costretti a fare i loro nonni, un numero che era il numero che i nazisti tatuavano sul braccio degli ebrei. E per esempio appunto una di queste sorelle dice, Mario Calabresi le chiede cosa pensa di quei ragazzi ebrei che si fanno tatuare sul braccio il numero che era toccato ai nonni, e lei risponde, non vorrei che ai miei nipoti lo avessero, per me ormai fa parte della pelle, quasi non ci faccio caso, ma per loro sarebbe diverso, io non lo mostro ma nemmeno lo nascondo, e ogni volta che lo guardo penso con orgoglio che dovevo diventare un numero e invece sono rimasta un essere umano. La prima pagina del Messaggero, naturalmente il Messaggero quotidiano di Roma, è dedicata a quello che è successo a Roma, la foto di un manifestante che lancia qualcosa, il titolo Roma a ferro e fuoco, 40 feriti e 70 arresti. Il commento di Paolo Graldi, una città aperta alla guerriglia e in ostaggio di minoranze. E poi naturalmente il titolo su Dell'Utri, preso in Libano, già chiesta l'estradizione, e poi un retroscena su come si è arrivati a questa cattura. Aveva 2 passaporti, 4 telefonini e, come avete sentito, 30.000 euro in contanti. Ci lasciamo un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani che a seconda titolano sui cortei di Roma, il corteo di Roma e la guerriglia che ne è seguita, l'arresto di Dell'Utri o i nuovi annunci di Renzi sulle misure anti super stipendi. Ma veniamo alla prima pagina dell'Avvenire, che invece come sempre è molto originale. Il titolo principale viene da un'analisi della Caritas: SOS dall'Italia solidale che soffre la crisi, allarme della Caritas, sportelli senza più risorse. C'è un boom di richieste di aiuto da cosiddetti insospettabili, 75% delle strutture diocesane ha esaurito i fondi, e da qui l'appello della Caritas: aiutateci ad aiutare. E poi anche in questo caso 2 notizie che trovate sugli altri giornali, ma non in prima pagina, non con questo giusto rilievo secondo me. La prima dalla Siria, dove sono tornati i raid chimici e non si sa neanche bene da chi, perché c'è il solito rimbalzo di accuse tra i ribelli, e anche qui quali ribelli, quali gruppi ribelli. Lo scenario siriano è sempre più indecifrabile, e il governo di Assad che resta lì nonostante tutte le accuse che gli vengono mosse. E poi anche in questo caso un richiamo in prima pagina per la vicenda dell'Ucraina, che naturalmente trovate anche su altri giornali, e qui c'è un risvolto che anche in questo caso è un taglio originale dell'Avvenire: è battaglia anche nell'etere perché Mosca ha spento le radio libere. Sapete che questo di cercare di spegnere la libera informazione o tutti i modi in cui le persone possono informarsi un po' fuori dai canali tradizionali è purtroppo un vizio di qualsiasi tipo di dittatura, soft o meno soft. Ricorderete senz'altro la battaglia del premier Erdogan, che ha chiuso anche Twitter per qualche giorno. Ecco, Mosca ha praticamente chiuso appunto queste radio libere, in particolare 2, Voice of America e anche Radio Liberty, e ora naturalmente gli americani protestano. Poi c'è la prima pagina del giornale, che invece si concentra su quello che sta succedendo all'interno del PD, perché ieri c'è stato una sorta di mini congresso con l'ala un po' ribelle del PD, capitanata da Cuperlo, un congresso a cui ha partecipato anche D'Alema, e il titolo è PD è mezza scissione, parlano. E poi c'è il riferimento a invece a quello che sta succedendo dentro Forza Italia. Parlano del caso Bonaiuti, Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Forza Italia, che ha lasciato appunto Forza Italia e si ipotizza che forse potrebbe entrare nel nuovo centrodestra di Alfano. Poi c'è un riferimento a Dell'Utri in quello che noi chiamiamo il catenaccio del titolo, quindi non è un titolo ma è una parte sottostante il titolo principale. Dell'Utri era in albergo, lo hanno fermato in Libano. Vi leggo la prima parte dell'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, perché poi ci ricolleghiamo con questo anche ad altre notizie. E scrive Sallusti: ieri mattina ho aperto i giornali, mi è venuto un colpo, titoloni del tipo Forza Italia nel caos, fughe e separazioni, che botta Forza Italia, ma anche a me che pur vivendo dentro un giornale non mi ero accorto di nulla, tanto che il nostro giornale in edicola sosteneva esattamente l'opposto, cioè che nonostante le botte giudiziarie il centrodestra, ultimi sondaggi alla mano, rimaneva saldamente unito in corsa. Imprecando contro sondaggisti cialtroni e colleghi distratti, mi sono divorato gli articoli della concorrenza e ho ritrovato il buon umore. Ecco, però in realtà Sallusti, se uno incrocia un po' le notizie, potrebbe per esempio leggere pagine 8 e 9 del Corriere della Sera, o possiamo farlo noi. C'è per esempio un reportage appunto del colloquio che Bonaiuti ha avuto ad Arcole, e intitolato Gelo di Berlusconi, vai via auguri, saluta Angelino, e questo è di Tommaso Labate. Poi Sallusti può ipotizzare che siano tutte bugie di chi scrive sul Corriere, però sembrerebbe invece che un pochino di problemi all'interno di Forza Italia, come del resto all'interno del PD, ci siano. E a pagina 8 del 9 del Corriere della Sera c'è invece un'intervista a Scajola, altro membro storico di Forza Italia, che dopo un passato nella Democrazia Cristiana era entrato in Forza Italia appunto negli anni 90, lo ricordiamo tutti, si è dimesso 2 volte, prima da quando era ministro dell'Interno per la famosa frase su Biagi, che vi ripeto perché secondo me nessuno dovrebbe dimenticarla mai, quando Biagi, il giusto lavorista, ucciso, gli fu chiesto a Scajola del perché a Biagi non fosse data la scorta, Scajola rispose: Biagi era solo, scusatemi la parola ma cito testualmente, un rompicoglioni che voleva il rinnovo del contratto. A seguito di quella frase si dimise una prima volta, poi si dimise una seconda volta per la casa acquistata a sua insaputa al Colosseo. E a questo proposito vi leggo quindi l'ultima domanda di Fabrizio Roncone a Scajola. Comunque lei il potente Scajola è più fuori che dentro le liste. Mi ricollego appunto al fatto che Forza Italia qualche problemino ce l'ha, come ripeto il PD. Il saggio Bonaiuti è stato trattato in quel modo, Berlusconi è un condannato ai servizi sociali, Dell'Utri è scappato in Libano. E Scajola risponde: un partito è fatto di programmi, valori, idee, persone. È detto che Berlusconi è stato vittima di una vera persecuzione. No, non si può buttare via tutto, anzi è proprio in certi momenti di grave difficoltà, e qui torniamo alla ragione di questo colloquio, che bisognerebbe allestire le liste più competitive. Posso dire che ho nostalgia di Forza Italia dei bei tempi, di quando eravamo un partito che includeva e non escludeva. E qui termina la risposta di Scajola e anche l'intervista, così come la riporta Fabrizio Roncone, che però aggiunge un suo corsivo tra parentesi. Considerati i toni già plumbei del colloquio, è parso inopportuno ricordare a Scajola che la vicenda della Casa del Colosseo, quella appunto di cui parlavo prima, che ha portato alle seconde dimissioni della carriera di Scajola, è tutt'altro che chiusa. I PM della Procura di Roma hanno infatti presentato ricorso in appello contro la sentenza di assoluzione, arrivata il 27 gennaio, spiegando che è viziata da gravi illogicità e travisamento dei fatti. Scajola era davvero di pessimo umore. Non è un mistero che il suo nome e cognome sia un foglietto di appunti insieme ad altri nomi e cognomi, legittimi giovani, ambiziosi ed ex potenti bolliti, una lista lunga e bizzarra che il Cavaliere, ancora ieri sera, stanco e amareggiato, si rifiutava persino di leggere. Vediamo la prima pagina di Libero, che invece ha un titolo ancora diverso, con una interessante inchiesta su quanto ci costa davvero la burocrazia, quella burocrazia che ieri Renzi ha promesso di piallare o di buttare giù con le ruspe, un'espressione colorata di questo genere ha usato. Il titolo è: come aggiungere 200 euro alla paga di tutti gli italiani. Renzo, eccola qua, Renzi ha promesso lotta violenta al mostro che divora ogni giorno tempo e denaro di imprese e cittadini. Si libererebbero risorse ingenti, ma il Premier manterrà la parola. L'inchiesta e che poi prosegue a pagina 7 di Libero è di Antonio Castro. Invece l'editoriale di Libero del direttore Maurizio Belpietro si intitola L'errore di Dell'Utri, il coraggio di Berlusconi. Me ne leggo una parte perché lo trovo coraggioso e anche molto lucido, ed è un po' in linea con quello che diceva Sergio Romano, cioè la questione dello scappare all'estero quando uno intuisce o magari sa, come alcuni pensano fosse nel caso di Dell'Utri, anche grazie ad alcune intercettazioni, sa che appunto sta per arrivare una richiesta di arresto. Indipendentemente da come andrà a finire, la breve latitanza dell'uomo che affiancò Silvio Berlusconi prima nella costruzione di Publitalia e poi nella formazione di Forza Italia è dunque un grave errore. Con questo non vogliamo dire che Dell'Utri avrebbe dovuto accettare con rassegnazione il proprio destino e lasciarsi sbattere senza protestare dietro le sbarre, né ci rifiutiamo di capire che cosa passi nella testa di un uomo di 72 anni che rischia di finire i propri giorni in una cella del Lucciardone. Di fronte alla prospettiva di anni di prigionia, soprattutto se ritenuti ingiusti, forse anche a un uomo senza macchie, anzi probabilmente proprio a un uomo innocente, verrebbe voglia di espatriare, lasciandosi alle spalle le cervellotiche ricostruzioni giudiziarie. Per questo a Dell'Utri va la nostra comprensione. Tuttavia, al suo voltare le spalle preferiamo la fermezza di Silvio Berlusconi, il quale, pur potendo prendere un volo per una qualsiasi capitale estera a prova di estradizione, ha scelto di rimanere qui a testimoniare l'ingiustizia che lo ha colpito. Il bestiario di Giampaolo Pansa, che tra l'altro è un uomo di sinistra, è stato anche per molti anni, diciamo, un giornalista di sinistra, ha scritto per giornali di sinistra, da qualche anno collabora con Libero e ogni domenica pubblica un lungo articolo che appunto è intitolato sempre Il Bestiario, e oggi il titolo del pezzo è: con la crisi di Forza Italia si rischia il partito unico. Vediamo la prima pagina del Manifesto, che invece dedica il titolo a quello che è successo a Roma. Anche qui la foto è di manifestanti e polizia che si scontrano. La casa brucia. A Roma il titolo si spiega perché queste manifestazioni poi degenerano, però in realtà era stata convocata per appunto protestare contro in generale le misure di austerity e in particolare i problemi che hanno molte persone con il trovare un alloggio. A Roma la manifestazione contro l'austerity e il Jobs Act, il grande progetto di legge di Renzi sul lavoro e per il diritto alla casa. Questa manifestazione è degenerata in guerriglia urbana. Un dimostrante ha perso una mano, 6 sono stati fermati dopo gli scontri, ci sono state cariche della polizia a Via Veneto. In piazza anche migliaia di immigrati senza lavoro e precari con meno di 1000 euro al mese. E poi in prima pagina, anche qui direi coraggiosamente perché questa è sicuramente una vicenda dolorosa per il popolo della sinistra, in particolare per il Manifesto che lo ricordo sempre, così come è l'unico quotidiano che ancora ha la scritta quotidiano comunista sopra. E la notizia è quella del congresso che c'è stato ieri dalla FIOM. La FIOM, il sindacato dei metalmeccanici che fa capo alla CGIL, ratifica la divisione, la CGIL si fa in tre. Gli scontri tra Lardini, che è il segretario della FIOM, e Susanna Camusso, che è il segretario generale della CGIL, erano noti da tempo, ma adesso appunto questa scissione sembra un po' ratificata. E probabilmente non è una buona notizia per il sindacato, perché più frammentati si è, probabilmente meno forza si ha, ma vedremo come evolverà questa vicenda. Vediamo l'Unità, che invece titola Elezioni, il PD lancia la sfida. A Torino con i candidati, Renzi era a Torino con i candidati alle europee e le amministrative. La sinistra che non cambia è destra, questa è la sintesi che ha fatto ieri per spiegare quanto sia importante che il partito lo segua nei suoi annunci, nella sua voglia di cambiamento. E poi invece, come dicevamo, a Roma c'è stato questo, diciamo, piccolo controcongresso dove Cuperlo ha proposto i comitati della sinistra e D'Alema ha addirittura dichiarato, veramente testuale, aspiriamo a diventare maggioranza, cioè D'Alema, che in questo momento è l'assoluta, fa parte di quell'assoluta minoranza del PD che non sta seguendo Renzi, che, diciamolo chiaramente, che sta mettendo i bastoni tra le ruote a Renzi, ma D'Alema aspira sempre a diventare maggioranza. Vi segnalo l'ultima cosa della prima pagina dell'Unità, un'intervista al ministro del lavoro Poletti che promette scivolo agli esodati. Ci risentiamo subito dopo il traffico per l'ultima parte della rassegna stampa. In primo piano. Ancora buongiorno, ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Oggi ci siamo un po' dilungati, appunto, anche perché i quotidiani, oggi è uno di quei giorni in cui ogni quotidiano ha fatto scelte un po' diverse, quindi valeva la pena magari appunto di sottolinearle. Il Fatto Quotidiano, come c'era da aspettarsi, titola sulla notizia di Dell'Utri. Dopo l'arresto di Dell'Utri a Beirut emergono le intercettazioni del fratello Alberto, fratello gemello, in cui si parla di far realizzare al Caimano, sapete che questo è il soprannome che il Fatto Quotidiano, in particolare Travaglio, da Berlusconi, con 5 milioni di euro, una onlus in Guinea-Bissau per garantire la salvezza del suo braccio destro. L'editoriale naturalmente di Marco Travaglio, i giorni dell'abbandono, ed è tutto su Dell'Utri. Vi leggo invece la copertina della la prima pagina della Gazzetta dello Sport. C'è un grintosissimo Mihajlovic, l'allenatore della Sampdoria, perché oggi c'è la sfida Sampdoria-Inter. Mihajlovic è un ex giocatore dell'Inter e il titolo quindi caccia all'Inter, match caldo. Amarassi, oltre alla classifica, balla un po' di futuro. E poi tante altre cose, compresa naturalmente la cronaca della partita di ieri, dove la Roma, battendo l'Atalanta, si è portata a meno 5 dalla Juventus. La Padania è un titolo ancora diverso, foto degli sbarchi, sapete che sono ripresi gli sbarchi di immigrati clandestini, sbarchi, invasione senza sosta, Alfano dimettiti. Alle pagine 4 e 5, appunto, questo approfondimento sull'appello del segretario della Lega che, piuttosto che, come hanno fatto alcuni, chiedere ad Alfano di dimettersi per la vicenda di Dell'Utri, gli chiede di dimettersi in quanto ministro dell'Interno per appunto l'incapacità di limitare questi sbarchi che, come del resto preannunciato dallo stesso Alfano, stanno aumentando, anche perché sta tornando, insomma, si alzano le temperature, migliora il tempo e, come sempre succede in questa stagione, tornano ad aumentare gli sbarchi di tutte queste persone che in generale scappano dall'inferno e che quindi affrontano qualsiasi cosa pur di cercare di arrivare in Italia e poi magari dall'Italia raggiungere qualche altro paese europeo. C'è poco tempo per le pagine interne dei giornali, vi segnalo da Repubblica un approfondimento a pagina 11 sulle famose nomine che arriveranno nei giorni prossimi dei super manager. C'è tutto un grande risico di poltrone. Allora, l'ipotesi che fa Roberto Mania su Repubblica è Descalzi verso Leni, quindi al posto di Scaroni, poi ci sarebbe Chiarini per Terna e poi per Finmeccanica spunta l'ipotesi Moretti, che era alle Ferrovie dello Stato. E da pagina 21 un'intervista interessantissimo approfondimento di Maurizio Ricci sulla delocalizzazione al contrario, cioè sulle aziende che dopo aver magari spostato capacità produttiva in Cina o in Romania per esempio, la riportano in Italia perché sotto molti versi conviene. Del Sole 24 Ore, dell'approfondimento di Alessandro Merli da Washington sulle dichiarazioni di Draghi al Fondo Monetario Internazionale abbiamo accennato, e appunto contro questo annuncio di Draghi interverremo contro l'euro forte, e però Draghi ha anche ricordato, perché questo euro sappiamo da tanti grattacapi alle aziende italiane che esportano, però Draghi ha ricordato l'apprezzamento della moneta unica ha contribuito ad abbassare l'inflazione, solo che sapete ormai andiamo verso la deflazione, quindi forse è ora appunto di fare qualcosa, ma sembra essersene reso conto benissimo lo stesso Draghi per fermare un po' questo super euro. Dalla copertina di Imprese e Territori del Sole 24 Ore vi segnalo la cronaca del Salone del Mobile che si chiude domani, oggi è l'ultimo giorno veramente importante, è aperto al pubblico oggi a Ropero, salone verso l'affluenza record. Claudio Luti, che oltre a essere presidente di Cartel, una delle più importanti aziende italiane del design, è anche presidente del Cosmit, che è la società che organizza il Salone del Mobile, buyer esteri di qualità interessati a comprare, ha spiegato alla nostra Laura Cavestri, resta invece incerta la domanda interna. Abbiamo tempo poco come sempre per le pagine culturali, naturalmente cominciamo dalla domenica del Sole 24 Ore, anche perché il memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, è dedicato proprio al Salone del Mobile. La scuola della Brianza, la grande Milano che torna, il direttore è andato il primo giorno al Salone, invitato tra l'altro a un incontro degli studenti di una scuola professionale di Lentate sul Seveso, quindi in piena Brianza, una scuola per aspiranti mobilieri e falegnami. E ci racconta da una parte l'entusiasmo di questi giovani ragazzi che hanno voglia di imparare questo mestiere, di usare le mani per fare qualche cosa di bello e di unico, come spesso succede in Italia, e poi però anche le difficoltà che si hanno ad aprire nuove scuole, come ha raccontato allo stesso direttore Giovanni Anzani, che è un imprenditore della zona e anche l'amministratore delegato del gruppo Polyform, quindi anche qui con un doppio cappello, sia di conoscitore delle difficoltà degli imprenditori locali, sia imprenditore lui stesso. Il breviario di Gianfranco Ravasi è intitolato Fra di noi, come sempre ve lo leggo, la tentazione è troppo forte, è una citazione da una poesia di Majakovskij. Dio di carne, Dio uomo, non cacciarti in alto a incagliarti tra le stelle, terrestre fra noi scendi e appari, non sei colui che sei nei cieli. Scrive Ravasi, il volto di Cristo striato di sangue ha da sempre attratto gli artisti, anche se in questa settimana definita santa, manca esattamente una settimana alla Pasqua, per eccellenza non tutti rievocheranno quella passione morte, rimane ancora viva la voce della fede e dell'arte che canta al Dio di carne. A differenza degli dei olimpici incagliati tra le stelle, egli scende fra di noi nel deserto del dolore, dell'infelicità, del tradimento, della solitudine, del silenzio mortale, e Majakovskij a invocarlo in quella sua raccolta poetica dal titolo surreale 150 milioni. È il Dio che soffre di Ungaretti, il pesante ed emozionante Cristo morto di Mantegna e così via. È però un collega di Majakovskij, Alexander Bloch, a ricordarci nel poema I dodici che Gesù Cristo scenderà dal suo patire crocefisso a estrarre il chiodo arrugginito per entrare nell'ora della trasfigurazione pasquale, che è naturalmente uno dei periodi più importanti per la liturgia cattolica. All'interno del domenicale trovate anche il quartino, cioè le quattro pagine Domenica da collezione. L'articolo principale di Stefano Salis è dedicato a Ian Fleming, mitico inventore della saga di 007, Fleming infiltrato tra i classici, e ci spiega Stefano Salis, a Parigi c'è l'Assise Mondiale dei Librai Antiquari e questa assise ha premiato come miglior libro sui libri la bibliografia completa del creatore di Bond, che è al centro di una vera e propria mania. E dalla lettura del Corriere della Sera, in edicola con il Corriere ogni domenica, un lunghissimo speciale, guardate sono 18 pagine, sull'Expo, perché manca un anno all'Expo e tutti, tra l'altro parlavamo del Salone del Mobile, hanno anche invitato a considerare il Salone del Mobile come un po' una prova generale di Expo, che sarà appunto l'esposizione universale appena fuori Milano, non lontano da dove si tiene il Salone del Mobile, è dedicato al cibo, Nutrire il Pianeta è il titolo, Nutrire il Energia per la vita è il titolo dell'Expo, sono attesi 20 milioni di turisti e appunto il Corriere decide a quasi un anno di dedicare molti approfondimenti a queste questioni. Dalla invece dalla Domenica della Repubblica vi segnalo un'intervista rarissima per quello che ricordo a uno stilista giapponese. I giapponesi sono in generale molto discreti, però poi magari si scopre che hanno influenzato o vestono persone, molte persone, quindi hanno una loro influenza per chi è interessato a questi aspetti. Lo stilista Issei Miyake, non chiamatemi stilista, è appunto il titolo scelto da Lorenza Pignatti per questa intervista. Il designer giapponese ci accoglie nel suo quartier generale di Tokyo, parla dello tsunami, della cucina italiana, del suo lavoro e del perché lo fa. Virgolettato, voglio creare oggetti che portino gioia. E poi un bellissimo racconto di Andrea Camilleri che ricorda quando nel 1954, quindi 60 anni fa, entrò alla RAI, perché sapete che prima di diventare famoso, ed è successo tra virgolette solo 20 anni fa, Andrea Camilleri aveva lavorato per tantissimo tempo alla RAI come sceneggiatore all'interno appunto, e poi 20 anni fa si è inventato il commissario Montalbano ed è un po' cambiato tutto. L'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, un articolo di Federico Rampini sempre da Repubblica: se crolla internet, cioè cosa succede se si sovraccarica la struttura della nostra ormai indispensabile rete. Era davvero l'ultima segnalazione, ma vi invito a comprare e leggere più giornali possibili, oggi sono ricchissimi come sempre ogni domenica. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.